Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, stiamo girando in queste settimane l'Italia e quindi continuiamo e ci fermiamo oggi in una delle mete più gettonate, Venezia. Visiteremo Venezia in un momento molto particolare della sua storia, quella dei brevi anni del dominio napoleonico che sono ricostruiti nel libro di Alvise Zorzi, che è uno dei più grandi studiosi di cose veneziane, Napoleone a Venezia, pubblicato da Mondadori, 226 pagine, 18,50 euro. Il dominio napoleonico diretto su Venezia durò esattamente 8 anni, dal 1806 al 1814. Napoleone, dopo averla ceduta all'Austria il 12 maggio del 1797, quando diventa imperatore se la riprende, per così dire, e ingloba Venezia nel Regno d'Italia, di cui era viceré il figliastro Eugenio di Beauharnais. Tra l'altro Venezia in quella fase è sottoposta all'umiliazione di avere appunto come capitale Milano. A Venezia Napoleone arriverà personalmente il 29 novembre del 1807 per soggiornarvi una settimana circa. Sarà fatto oggetto di grandi smancerie, salamelecchi, ma si rafforzerà nella convinzione che Venezia sia importante soprattutto da un punto di vista militare. Non pare che abbia subito particolare fascino dalla storia millenaria della Repubblica, dal suo patrimonio artistico, che peraltro aveva anche saccheggiato per ordine, per la verità, delle autorità parigine quando non era ancora imperatore. E si rafforza anche nell'idea che Venezia debba abituarsi a un assetto urbanistico da città normale, per così dire. Di questa Venezia ci parla appunto Zorzi, illustrandoci le condizioni della città, la sua perdurante vivacità culturale, l'attività commerciale e industriale che viceversa era in grande declino, e anche la parabola degli anni napoleonici che culminarono poi in una serie di scontri e di insurrezioni che hanno il loro apice nel 1809. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno ad Alvise Zorzi. Il suo libro comincia sottolineando come Venezia, pur nell'epoca napoleonica, anche dopo la cessione prima all'Austria e poi appunto al Regno d'Italia, non era il cadavere vivente che spesso viene descritto e che anzi c'era una notevole vitalità. Lei parla piuttosto di crisi del sistema. Ecco, come mai questa sottolineatura? Venezia quindi era ancora vivace? Ma dunque, al momento in cui arriva Napoleone, la prima volta come Bonaparte, non ancora come imperatore, era ancora vivacissima, soprattutto intellettualmente, ma era in grave crisi proprio la struttura politica, perché era un'aristocrazia che si andava via via estinguendo, sempre anche demograficamente, e soprattutto era stata una potenza mondiale, poi una potenza europea, ma ormai di fronte ai grandi stati nazionali che le stavano intorno era diventata molto piccola. Perciò questo spiega sia da un lato la grande fioritura, il fuoco d'artificio degli ultimi anni della Serenissima, il Tiepolo, i Guardi, i Goldoni, i Vivaldi, ma nello stesso tempo spiega anche l'incapacità di difendersi contro l'aggressione dell'armata d'Italia, del generale Bonaparte. Poi quando Bonaparte è diventato Napoleone, imperatore dei francesi e re d'Italia, ne prende possesso, è una città che conserva ancora qualcosa, ma che già ha perduto moltissimo della propria forza, della propria entità anche economica. La dominazione napoleonica le dà il colpo di grazia. Questa dominazione è caratterizzata, come lei scrive, dall'ambizione di Napoleone di adeguare una città profondamente diversa, cito dal suo libro, a una realtà urbana ritenuta normale. Cioè Napoleone voleva trasformare Venezia in una città normale e per far questo fa anche degli interventi di carattere anche urbanistico che poi hanno sconvolto la città. Napoleone non poteva capire, non capì l'eccezionalità di Venezia. Infatti i suoi soli commenti davanti ad una città famosa al mondo sono stati primo ecco cosa può fare la potenza del commercio, e seconda vedendo la piazza San Marco, beh, questo è un salotto per il quale va bene il cielo, buonanotte, altro non dice, non la capisce, non gli interessa granché, gli interessava come base militare, però interviene, beh, purtroppo su richiesta a quanto io credo di aver dimostrato dei notabili veneziani, per far sì che la città perda la sua specificità. E con ciò crea i giardini, facendo demolire una quantità di monumenti, crea un cimitero, demolendone altri, e crea il primo rettifilo stradale, che è la via Eugenia, quella che adesso si chiama via Garibaldi, e poi invece mette il segno del conquistatore davanti alla Basilica di San Marco col nuovo Palazzo Reale. E quei notabili continueranno in questa politica anche dopo l'annessione all'Italia? Purtroppo sì, e non è detto che smettano nemmeno adesso, perché c'è un continuo conflitto fra chi vede Venezia meravigliosa nella sua specificità e chi invece continua a pensare a farne una città moderna. Ora, francamente, ormai si è dimostrato da molto tempo che la specificità non esclude una possibilità di vita anche nel nostro tempo, basta saperla interpretare nel modo giusto, ma ci saranno feroci interventi, soprattutto dopo l'unità d'Italia, dopo che Venezia entra nel Regno d'Italia dei Savoia nel 1866, ci sarà una serie di sventramenti, demolizioni, l'ira di Dio, proprio per questa stupida ambizione di far sì che Venezia sia una città come le altre. Lei scrive nel suo libro che nonostante i moti finali che caratterizzarono il dominio napoleonico a Venezia, in quegli anni in realtà non ci sia stato l'evolversi di un sentimento nazionale italiano. Ma no, perché viene attribuito a Napoleone la creazione, la formazione di questo sentimento. In realtà gli slanci nazionalistici e nazionali, che diventeranno poi nazionalisti, si manifestano soprattutto in senso antinapoleonico in Spagna, soprattutto nel mondo tedesco, dove la conquista napoleonica sarà intesa come oppressione e dove maturerà perciò un sentimento nazionale fortemente antinapoleonico. Dalle nostre parti ciò non si verifica, perché prima di tutto perché Venezia città era in uno stato di prostrazione economica totale dovuta alla fine dei traffici marittimi a causa del blocco continentale di Napoleone, e in cui era sparita una classe dirigente, in cui non c'era più nulla che la potesse pilotare, e purtroppo una situazione che si verifica anche adesso. Bene, grazie ad Alvise Zorzi, autore di Napoleone Venezia. Ma grazie a lei, amico. Sulla grande e gloriosa Venezia vi segnalo il libro di Maria Pia Pedani, che è una docente all'Università di Venezia, Venezia, Porta d'Oriente, pubblicato dal Mulino, 334 pagine, 26 euro. Qui si parte dal 21 marzo del 421, che è la data mitica della fondazione della città, per darci di Venezia più che una storia politica, una storia sociale, economica e culturale, volta ad approfondire gli aspetti più importanti e caratteristici della civiltà veneziana, per esempio la forza e l'importanza del suo leggendario servizio diplomatico, che è rimasto un modello per molti secoli, la capacità dei suoi commercianti, il rapporto con i musulmani, la curiosità verso l'altro, come scrive l'autrice, ricambiata con l'interesse verso Venezia da parte di molti storici, osservatori e visitatori musulmani. Si ispira a Venezia pagine di un diario veneziano, Gli anni delle immagini perdute, di Valerio Zurlini, che fu un grande appartato regista italiano, autore tra l'altro della riuscita trasposizione cinematografica del Deserto dei Tartari di Buzzati. Zurlini morì nel 1982 e poche settimane dopo la sua morte viene pubblicato questo libro in una forma fuori commercio, che adesso ripropone Mattioli, 1885, 244 pagine, 18 euro. Queste pagine rappresentano una divagazione di Zurlini sulla propria vita, segnata dalla passione che lentamente matura per il cinema, dall'esperienza nella Resistenza, dall'incontro con i grandi intellettuali del suo tempo, dai progetti realizzati e di quelli rimasti nel cassetto, tra cui tre in particolare che qui Zurlini descrive, facendoli precedere da alcune osservazioni. Si tratta quindi di una bella occasione per accostare ricordarci la vivacità culturale del dopoguerra, segnata dalla presenza di assoluti mostri sacri, per esempio Giorgio Morandi, al quale Zurlini dedica queste righe per metterne in luce l'unicità e la straordinarietà, anche nella generosità. Una generosità che viene illustrata da un episodio che Zurlini ricorda. Morandi scrive: «Fu forse il solo dei pochi artisti famosi di allora che alla fine della guerra, quando la Galleria Nazionale d'Arte Moderna volle acquistare un suo dipinto, rispose testualmente: "In questo momento mi sembrerebbe immorale accettare denaro dallo Stato". Altri tempi. Ma sentiamo le righe di Zurlini. A Morandi si è dedicata una letteratura quasi esclusivamente critica, un po' come a Braque. Certo, a lui mancano l'episodica multiforme di Picasso, eternata con ogni mezzo in ogni momento di vita, ma Picasso era un compiaciuto interprete di se stesso. La stravaganza di Dalì, che si fuse addirittura con il suo linguaggio, sino a diventarne parte integrante del mondo creativo. L'assurda vis polemica e l'ironia di De Chirico, che ha fatto sudare 7 camicie a mercanti, collezionisti e notai, e che celava un bisogno un po' infantile di protagonismo e un fondamentale disprezzo per il mondo. Ultimi arrivi. Un romanzo ambientato nella Venezia all'apogeo della sua potenza è quello di Riccardo Calimani, veneziano, ingegnere, appassionato della sua città. Il libro si intitola Venezia, passione e potere, pubblicato da Mondadori, 310 pagine, 19,50 €. Poi un giallo in cui ritorna invece una figura fiorentina, il commissario Bordelli, creatura di Marco Vichi, che torna con Un tipo tranquillo, pubblicato da Guanda, 238 pagine, 16 €. Questo è un giallo ambientato in Toscana che parte da una vita ordinaria e tranquilla per condurci agli oscuri abissi di un apparente ben pensante. Di Luisa Ciuni ed Elena Mora segnalo Grace e Diane, i destini gemelli di due principesse tra fiabe e tragedie, pubblicata da Cairo, 206 pagine, 14 €. Una storia parallela delle due principesse, protagoniste delle cronache mondane, ma anche della commozione del mondo nel momento della loro tragica scomparsa. Infine un soggetto immancabile in questo periodo, cioè Caravaggio, di cui il 18 luglio abbiamo ricordato il 400° anniversario della morte. Vi ricordo che ci sono anche molti appuntamenti espositivi ancora in corso, a Genova fino al 26 settembre alla Villa del Principe la mostra Caravaggio e la fuga, la pittura di paesaggio nelle ville d'Ora e Pamphili, che parte da un capolavoro giovanile del pittore, cioè La fuga in Egitto. A Firenze, fino al 17 ottobre, a Palazzo Pitti e agli Uffizi, Caravaggio e Caravaggeschi, che parte dai capolavori di Caravaggio presenti a Firenze, tra cui Il Bacco, La Medusa e Il Sacrificio di Isacco. A Lecce, fino al 5 settembre, nella chiesa di San Francesco della Scarpa, la mostra che mette a confronto due versioni dello stesso quadro, di un San Francesco in meditazione sul quale gli studiosi si accapigliano per decidere quale dei due sia effettivamente di mano del Caravaggio. E infine a Porto Ercole, cioè la cittadina dove Caravaggio morì, fino al 18 agosto nella chiesa di Sant'Erasmo è esposto il San Giovanni Battista. Il libro che ci ripropone Caravaggio è quello di Silvano Vinceti, Giorgio Gruppioni e Luciano Garofano, Il mistero Caravaggio, è pubblicato da Rizzoli, 220 pagine, 18 €. Il primo è uno scrittore, il secondo è un biologo, il terzo un ex generale dei Carabinieri ed ex direttore del RIS di Parma, che con fare appunto da autori di un poliziesco indagano sulla morte del Caravaggio e soprattutto su una vicenda sulla quale si è molto parlato, e cioè sull'attribuzione di alcuni resti alla effettiva identità del Caravaggio. Quelle ossa che si sono trovate sono di Caravaggio? E su questo indaga il libro, però partendo da una vita che, come sapete, fu abbastanza dissoluta del pittore, che ci viene qua riproposta. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, ci spostiamo adesso a Napoli e in compagnia di uno dei giornalisti più famosi della sua generazione, Antonio Ghirelli, di cui esce da Mondadori Una certa idea di Napoli, storia e caratteri di una città e dei suoi abitanti, 144 pagine, 18 €. Troviamo qui una serie di osservazioni sulla città e i suoi abitanti, uno dei suoi periodi più significativi, la Belle Époque, e poi gli anni più recenti, che permettono di ricordare tre figure carismatiche come Totò, Peppino ed Edoardo De Filippo, fino alle prospettive future. Queste vengono presentate in un capitolo finale che prende le mosse dalla ricerca annuale che proprio il Sole 24 Ore effettua sulla qualità della vita nelle province italiane, che ha visto Napoli alla penultima posizione. Ghirelli non è del tutto pessimista sulle prospettive della sua città. Per lui una certa idea di Napoli come si è costruita nel corso di 20 secoli è ancora viva e vitale. C'è la cultura, c'è la ricerca, ci sono tanti aspetti positivi, manca, secondo Ghirelli, che ricorda qui Jacques Attali, un'organizzazione amministrativa che faccia funzionare la macchina, un'organizzazione che guardi allo sviluppo delle condizioni urbane nei vari settori, quello economico, quello turistico, le biotecnologie e anche l'agricoltura. Speriamo che basti solo questo per risollevare questa straordinaria città. Andiamo un po' più a sud, verso Ravello, dove è in corso il Ravello Festival, che si prolungherà fino al 26 settembre. Ne è padre Domenico De Masi, che ha appena pubblicato con Avagliano Ravello, un petit tour, 280 pagine, 15 euro. Domenico De Masi è un grande sociologo e si è praticamente fatto adottare da Ravello, ne è anzi cittadino onorario, e per manifestare la sua riconoscenza ha scritto questo libro che ripercorre la storia di questa straordinaria località che incantò e continua a incantare artisti, uomini di cultura e naturalmente tutti coloro che vi mettono piede. Sentiamo dal libro l'insolito impatto che ebbe Ravello su Wagner, il cui passaggio il 26 maggio del 1880 segnò la composizione del Parsifal, ma lo segnò in un modo inconsueto, come ci spiega De Masi, parlando proprio del giardino nel quale si svolgono i concerti. Tra l'altro ce n'è uno in programma proprio per questa sera. Il caso di Wagner è esemplare. Qui il musicista non trovò l'ispirazione per una musica da comporre in seguito. Chissà quante volte ciò gli sarà capitato girando il mondo e cavando spunti dagli uomini e dalle cose in cui si imbatteva. A Ravello il processo è inverso e assai più singolare. Wagner ha già composto una musica divina e una situazione scenica di potenza soprannaturale. Ha già girato molto in Germania e in Italia alla ricerca di un luogo all'altezza delle sue note e delle sue visioni. Ma solo a Villa Rufolo il giardino di Klingsor è trovato. Al compositore del Parsifal e al suo scenografo sarà bastato uno sguardo per riconoscere dei ruderi medioevali, nella flora aggressiva, nel panorama incomparabile, tutti gli elementi prefigurati dalle note del secondo atto. Il privilegio accordato dai ravellesi a quell'evento forse deriva proprio dalla sua originalità. Boccaccio e Gide, Forester ed Escher vedono Ravello e ne traggono spunti per le loro descrizioni. Wagner, invece, ha già descritto un luogo ideale e solo a Ravello scopre che, per quanto sublimato quel luogo risulti dalle sue note, tuttavia qui e solo qui esso trova un corrispettivo reale. Solo Ravello è in grado di imitare la sua arte. Salutiamo Wagner e Ravello con un celebre scrittore di Napoli del dopoguerra, Domenico Rea, scomparso nel 1994, di cui ISBN ripropone forse uno dei titoli più famosi, un libro del 1950, Gesù, fate luce, 240 pagine, 12 euro. Sono 12 racconti che descrivono la Napoli del dopoguerra, dando voce a una quotidianità umile e faticosa, colta con grande affetto e capacità espressiva, frutto, come scrive Domenico Scarpa nella postfazione, di uno scrittore che ha sgombrato e alleggerito la sua aria, che ha imparato a divertire se stesso con calma, oltre a saper divertire gli altri con fuoco. Un narratore agile e guardingo, assistito da una rietta di gioventù, saputa e innocente quanto più è furba. E sentiamo da questo libro le righe tratte da una novella che parlano dei contrabbandieri, un fenomeno che dai tempi di Rea ha fatto molti passi avanti. Anche i grandi contrabbandieri operarono e guadagnarono il loro denaro col coraggio e la buona volontà. Tra di loro, è vero, si respira un'aria più allegra e si sfiora l'alea del pionierismo. La maggior parte di essi provenivano da una razza di gente, sensali, affaristi di paese, camaleonti, ruffiani, sergenti maggiori, sempre sbaragliata e sempre allerta. Di quella gente che si sveglia la mattina e comincia a fischiare, guardando i figli, la moglie, le tasche e il canterano vuoti e che la sera torna col mangiare in braccio. «Come hai fatto?» dice la moglie. «Che te ne importa? Mangia, mangiate!» Dopo 4 o 5 mesi erano già forti di milioni di amlire e autotreni e autocarrette. Grandi erbaiuoli, patataiuoli, pomidorai, piattai, come capitava. Portavano gli autotreni carichi a Roma Liberata, a Bari, negli Abruzzi, e si davano, lungo la strada, a tutti i commerci possibili, dai trasporti dei passeggeri al tabacco in foglie. Quando apparvero, minacciarono seriamente i piccoli contrabbandieri, i quali avevano usato quasi sempre il baratto coi contadini. Ricevevano olio, fichi, mandorle, grano, eccetera, e davano capi di vestiario americano, utensili domestici, proiettili. I grandi invece invasero le terre dei fichi secchi e delle mandorle con sacchi di denaro, che ritornava ad essere utile ai contadini, per il rincaro continuo dei concimi, e più attraente, in ogni caso, dei beni in natura, dei quali ormai erano pingui. Una descrizione delle tante contraddizioni di questa grande città è quella di un giovane giornalista, Alessandro Migliaccio, Paradossopoli, Napoli e l'arte di evadere le regole, pubblicata da Vertigo, 168 pagine, 14 euro. Con una ricca e spesso divertente o desolante, a secondo i punti di vista, documentazione fotografico. Napoli è una fabbrica di paradossi. Per esempio, c'è il regolamento del biglietto che evade le regole, o le telecamere antincivili che non registrano gli incivili, o il tribunale dove si ruba e si entra armati, oppure ancora, leggo sempre dall'indice del libro di Migliaccio, il grattino che frega gli automobilisti, o i milioni sprecati per il mercato abusivo, o il capo dei vigili urbani che picchia. Che è il giornalista, e qui Migliaccio si riferisce a un'infelice esperienza professionale che ha vissuto lui stesso direttamente nel corso di un tentativo di spiegazione su un episodio particolarmente curioso della sua città. Sempre un amabile, leggiadro viso, impianto e riso, è menzognero. La donna è mobile, qual più mal vento, muta d'accento. Un brano celeberrimo del Rigoletto, cantato da Luciano Pavarotti, ci riporta a nord, a Verona, perché il 7 agosto ci sarà la prima rappresentazione all'Arena di Verona del Rigoletto, appunto, di Giuseppe Verdi, nell'ambito della stagione lirica all'Arena di Verona. Questa edizione sarà quella curata da Franco Zeffirelli e l'orchestra è diretta da Marco Armiliato. Vi voglio segnalare in questa occasione un libro di Mario Lavagetto, Un caso di censura, il Rigoletto, è pubblicato da Bruno Mondadori, 180 pagine, 15 euro. Il Rigoletto in effetti fu un testo molto tormentato sul quale Verdi dovette intervenire più volte per le occhiute attenzioni che le molte censure di tutta Italia posero su questo testo. Nella sua prima versione Verdi si era ispirato a un dramma di Victor Hugo, Le Roi s'amuse del 1832, che a sua volta era stato bloccato dalla censura dopo la prima rappresentazione. Riprende questo testo, gli dà titolo La maledizione, propone questo testo alla Fenice e viene bloccato immediatamente dalla censura austriaca, che con linguaggio burocratico ma inequivocabile blocca ogni tentativo. Scrive infatti la Imperial Direzione Centrale d'Ordine Pubblico alla presidenza del Gran Teatro La Fenice: Sua Eccellenza Signor Governatore Militare Cavalier de Gorskowski, con suo rispettato dispaccio eccetera, mi ha ordinato di partecipare a codesta nobile presidenza, che egli deplora che il poeta Piave ed il celebre maestro Verdi non abbiano saputo scegliere altro campo per far emergere i loro talenti che quello di una ributtante immoralità ed oscena trivialità qual è l'argomento del libretto intitolato La maledizione, per la di cui produzione sulle scene della Fenice codesta presidenza ebbe a presentarlo. La prelodata eccellenza sua ha quindi trovato di vietarne assolutamente la rappresentazione e vuole che in pari tempo io renda avvertita codesta presidenza di astenersi da ogni ulteriore insistenza in proposito. Retrocedo il manoscritto trasmessomi con la gradita sua accompagnatore, eccetera, eccetera. E insomma, il povero Verdi dovette rimettere mano al testo e finalmente nel 1851 il Rigoletto poté andare in scena. Ma quando poi il Rigoletto viene proposto in una città dello Stato Pontificio, cioè a Ferrara, poche settimane dopo, apriti cielo, lì la censura interviene di nuovo e addirittura il cardinale arcivescovo Vannicelli invia un dispaccio al ministro dell'Interno per annunciare la sua assoluta ostilità alla presentazione di quest'opera. E scrive il cardinale: per la seconda opera si era scelta l'opera intitolata Rigoletto, nella quale non mancano adulteri, rapti, assassini e immoralità d'ogni sorta, e tuttavia volevasi carpire da questa curia il permesso per le ragioni che era stato di già messo in scena a Venezia. Il cardinale impone non solo di non farlo vedere a Ferrara, ma addirittura di non farlo vedere in nessuna città del regno pontificio. E addirittura nasceranno delle versioni, altre versioni del Rigoletto messe in musica da altri autori, proprio per cercare di aggirare questa censura e per cercare di rendere il testo, che veniva considerato foriero di ogni peccato, più palatabile per le autorità. Per quali ragioni le autorità erano così sospettose di questo testo? Lavaggetto lo spiega nel suo testo e dice infatti che la censura non ammette deroghe e cancella gli esempi negativi perché vi scorge qualcosa di infido. Secondo i suoi canoni, il delitto non genera, come pretenderebbero alcuni, ripugnanza e condanna, ma imitazione. E questo spiega appunto il meccanismo censorio nella sua complessità e nella sua elementare stupidità, che poi ha naturalmente sempre delle conseguenze politiche. E a questo punto... Il confettino. Vi segnalo una nuova serie di libri di Gallucci, gli utensi libri, Lavati il becco di Claire Arthur, illustrato da Vincent Mathy, e Un lupo nella mia camera di Michel Picmel, illustrato da Vanessa Gauthier, tradotti entrambi da Alessandro Marcigliano. Sono due storie divertenti accompagnate da uno strumento adatto a seguire queste storie, uno dei quali particolarmente utili per le buone abitudini dei piccoli lettori. Ve le lascerò scoprire. E con questo ringrazio Vittorio Mussini, redazione, Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre trasmissioni. In particolare, però, se volete riascoltare un libro tira l'altro alla radio, c'è la replica sabato alle 16:30 e poi noi ci sentiamo domenica. Buona settimana a tutti.